Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va? E benvenuti dunque a questa ennesima puntata di Fumetti a Sinistra, un mondo dentro i balloon, una trasmissione che quest'oggi porterà a termine l'intervista di Morena Moretti a Giulia Maffai al tempo del Pioniere negli anni 50, giovane ragazza uscita dall'Accademia di Sinistra che aderì entusiasticamente al progetto rodariano del giornaletto Fumetti e con Gianni Rodari ha compiuto proprio tutto il primo percorso del Pioniere. E allora la settimana scorsa abbiamo rievocato proprio l'atmosfera di quell'ambiente, diceva la Giulia Maffai, da collettivo con pochi soldi ma tantissimo entusiasmo. Oggi invece, nella parte conclusiva dell'intervista della Morena, ascolteremo l'attività della Giulia Maffai oggi, che è interessante perché in quanto conclamata artista dimostra che incredibile laboratorio di talenti, di fucina, di capacità creativa fu quell'esperienza rodariana. Quindi sentiamo questa intervista, ma prima, per gli amanti dei cartoon giapponesi, abbiamo una rielaborazione dell'aria montana di Heidi, questa volta secondo il Cello Bologna Project, curata e organizzata nell'orchestrazione da Diego Conti. Dopo quest'aria alla Heidi andiamo ad ascoltare la parte finale dell'intervista di Morena Moretti a Giulia Maffai. Giulia Maffai, lei oggi lavora ancora? Sì, non mi lamento, guarda. Ho inaugurato una mostra esattamente 10 giorni fa. Ecco, È una mostra di pittura. Sì, è una mostra su mia madre, una mostra di mia madre al Museo Bidotti di Roma. E, all'inizio dell'anno ho inaugurato una mostra di costumi, non miei, di costumi fatti per il Sibi Fellini l'ho inaugurato in Russia, a San Pietroburgo, al Museo Erasta. No, va avanti. Dopo l'esperienza di pioniera, naturalmente è stata breve, la sua invece esperienza lavorativa, artistica successiva per grandi linee, ce la può raccontare? Mia cara, a quell'epoca si faceva un po' di tutto, eravamo un po' dei mercenari non pagati, tutti ci promettevano di pagarci e poi non ci pagavano. E io ebbi per alcuni anni e collaborai come per i disegni di moda con il Paese Sera, con il Paese Sera e con Vie Nuove, ecco, e qualcosa feci anche per noi donne quando la direttrice era la Maria Antonietta Macciocchi. E però contemporaneamente avevo incominciato il mio lavoro come scenografo, come costumista di teatro e di cinema soprattutto, per cui quel mondo poi alla fine un pochettino l'ho abbandonato, e col mondo del pioniere l'ho un pochino abbandonato, non c'è dubbio, insomma. Per esempio, una cosa che secondo me è carina da segnalare, sì. Ovviamente in quegli anni il mondo femminile era molto limitato, soprattutto il mondo femminile delle donne che volevano o dovevano lavorare, perché c'era l'ambivalenza fra il voler lavorare e il dover lavorare. Quindi anche nel gioco dell'illustrazione, che io sappia, posso anche dire delle stupidaggini perché è un tema che non ho approfondito, l'unico spazio che si dava alle donne, che io mi ricordi come illustrazione, era il gioco della moda, per cui c'è stata la grandissima Brunetta, c'è stata la Pezzi e ci sono state due o tre donne di qualità, quindi era abbastanza, io sono stata tra le prime giornaliste di moda, avevo 21 anni quando si è aperto la famosa moda italiana a Firenze, voglio dire, eravamo proprio quattro gatti, c'erano proprio i primi, direi che erano i primi passi femminili, ma in ogni campo, come Miriam è stata fra le prime Miriam, mia sorella, è stata fra le prime giornaliste, l'altra mia sorella è stata una fra le prime donne a votarsi alla politica. Ecco, eravamo lì, sono state un po', credo, fra le prime a iniziare una certa strada, ecco, per cui abbiamo fatto anche ovviamente degli sbagli, abbiamo fatto degli errori, abbiamo fatto dei tentativi che poi non sono andati in porto, però indubbiamente eravamo le prime. Delle pioniere anche in questo senso, direi. No, assolutamente, cara, e io questo ci tengo molto a sottolinearlo, perché mi viene da ridere anche adesso questo scandalo tipo sessuale delle donne. Io mi ricordo, per esempio, pensa che Zarattini, sai, il grande, sì, famoso scenario, che era poi l'amico di casa nostra, eccetera, eccetera, ebbe l'occasione di presentarmi Alessandro Blasetti, che era un grandissimo regista di quell'epoca, anche lui un ex fascista, ma un grosso regista, e mi ricordo che disse a Zarattini, ero una bella ragazza, no? Io ho vissuto, direi, la mia bellezza, chiamiamola bellezza tra virgolette, mi vergogno a dirlo, come un handicap, perché anche gli amici volevano a tutti i costi che facessi l'attrice, Peppe De Santis o Gillo Pontecorvo, non accettavano che una donna che non fosse storta, gobba o avesse i baffi, facesse qualche cosa di diverso, o la donna di casa o l'attrice, capito che ti voglio dire? Con l'attrice, la frase di Blasetti è tipica, è troppo carina per essere intelligente. Non c'è niente, per essere intelligente deve essere brutta. Donne, Entriamo allora negli anni 60, perché proprio nel 1962 esce il primo numero di Diabolik delle sorelle Angela e Luciana Giussani. È un personaggio sicuramente che irrompe clamorosamente nel mondo dei fumetti, perché non solo è un antieroe, ma è un eroe cattivissimo, è un criminale che uccide lui e la sua fidanzata Eva Kante. Subito questo personaggio diabolico o Diabolik ha un successo strepitoso, tanto da oscurare anche dei fumetti precedenti e da in qualche modo preoccupare esteti anche del fumetto e grandi esperti come il professor Faeti, che ai nostri microfoni così ha dichiarato. Io ricordo che quando i miei bambini, perché allora facevo il maestro, all'inizio degli anni 60, erano tutti schierati con Diabolik, io che ero competente ed ero collezionista come loro, facevo spesso osservare con i mezzi d'allora, con o le diapositive o i proiettori a sovrapposizione, quello che io sentivo profondamente, che Diabolik era pessimo, era disegnato almeno all'inizio, poi con l'arrivo di Zaniboni migliorò molto, era il fatto che Diabolik metteva in evidenza il lato proibito della narrazione. Dunque si apre l'era del fumetto nero italiano, questo grande fascino della trasgressione, del vivere fuori dalle regole, che in qualche modo anticipa la voglia di ribellione che sarà alla fine degli anni 60. Il noir diventa un fumetto importante e allora sentiamo le parole delle sorelle Giussani, che naturalmente furono le creatrici di questo fumetto di grandissimo successo. Ma facciamo presso poco tutte e due lo stesso lavoro. Cioè noi inventiamo le storie, ecco, e tutto qui, io ne invento una, lei ne invento un'altra, poi quella che invento io la legge lei e mi fa tutte le critiche e viceversa, insomma, perché magari una crede di averci messo tutto, no? E invece magari è sfuggito un errore che l'altra vede, ecco, e lavoriamo un po' in equipe. E anche all'inizio era così? Sì, sì, è sempre stato così. E per il disegno? No. No, il disegno, no, abbiamo dei disegnatori, insomma, non, nessuno di delle due disegna. No, ma all'inizio ho cominciato lei, io ho cominciato più tardi, e dopo abbiamo cominciato a lavorare in equipe. Com'è organizzata l'equipe che lavora al Diabolik? C'è diverso personale, interno e esterno. Interno ci sono due disegnatori fissi, poi abbiamo disegnatori esterni da Torino, Mantova, L'Aquila, diversi posti. Poi ci siamo io e la mia collega, che seguiamo il Diabolik dall'inizio proprio fino alla fine, quando arriva la pellicola della stampa. E poi ci sono altri collaboratori esterni, sceneggiatori e soggettisti. Cioè abbiamo dei soggettisti fissi, però se qualcuno ha delle idee valide può portare la storia e viene accettata, sempre se valida. E in particolare il ruolo delle sorelle Giussani in tutto questo qual è? Supervisore capo. Decidono tutto loro, cioè scelgono loro la storia, fanno loro i cambiamenti, bene o male, cioè senza il loro benestare non si decide niente. L'ambientazione geografica del vostro personaggio, Clerville, Genf, dove sono? È di fantasia. Noi ci immaginiamo un po' Francia-Inghilterra, ecco, così. Francia soprattutto. La Costa Azzurra? Sì, anche un po' Parigi, perché infatti c'è il fiume a Clerville. E Londra. Sì. E poi questa Genf dovrebbe esserci Marsiglia, ecco. Rimbomba, si tratta di me, dai reggiti forte che spacco le porte, arrivo da te, bambina hai scelto la vita dura, scegliendo me, ma i baci che ti do ti fa morire. se crollano i monti e saltano i ponti. Ah, si tratta di me, aspetta il balcone che ingroppa il ciclone. Ah, arrivo da te, bambina, hai scelto la vita dura, scegliendo me, ma i baci che ti do ti fa morire. In bomba, ah, si tratta di me, con l'urlo finale e un salto mortale. Ah, ritorno da te, bambina, hai scelto la vita dura, scegliendo me, ma i baci che ti do ti fa morire. A seguire, poi, sull'onda del fumetto nero, arrivano anche Criminal e Satanic del sceneggiatore Max Bunker e del disegnatore Magnus. Sentiamo da Bunker allora questo passaggio tra Diabolic e Criminal e Satanic. So Satanic. Che lei aveva letto forse qualche numero inizialmente di Diabolic, e su questo... Senza no, è andata così la storia. Il distributore nostro è lo stesso di Diabolic. Sì. Diabolic era trimestrale. Sì, infatti. Il distributore me lo dà da leggere, dice, guarda, legga un po' qua, che secondo me c'è qualche cosa di interessante. Allora io ho letto questo primo numero di Diabolic. Era Fantomas, ho respirato nettamente Fantomas. Tra l'altro, piccola parentesi, io sono un grosso lettore di gialli. Di base sono un giallista, io faccio sempre gialli, che siano poi nel western, che siano ironici o satirici, che siano drammatici, ma sono sempre gialli, no? Allora ho, tra le altre cose, anche la collezione di tutti i libri di Fantomas, e ho capito subito l'ispirazione, che era, l'ispirazione era quella, non c'è niente di male, come debba dire, ognuno si deve ispirare a qualcosa, Comunque ho capito il meccanismo, e ho letto solo due Diabolic, non li ho letti più per evitare che anche nell'inconscio di avere un qualche cosa, di prendere un qualche cosa inavvertitamente, capisci? Proprio da non avere nessun condizionamento. Allora non ho mai letto, però da lì è nato Criminal e poi Satanic. Ecco, scusi la domanda, come ricorda forse. Come ha scritto il primo soggetto, e soprattutto quelle scene forti che non c'erano in Diabolic, no. Cioè anche il modo in cui il Criminal compie, almeno inizialmente, gli omicidi, cioè, erano tutto frutto della sua fantasia e volontà, o c'era anche poi lo zampino splatter di Magnus che ha un po' premuto l'acceleratore su questo? No, diciamo così, che eravamo arrivati a una conclusione che era questa: fino a quel momento tutti gli eroi dei fumetti erano, diciamo, al servizio della legge 24 ore su 24, non mangiavano, non dormivano, non facevano l'amore, niente, erano quasi degli automi, sempre pronti alla difesa della legge. Il concetto lì era di andare in una linea di verismo, il passaggio è stato quello, e il verismo naturalmente è anche a un certo punto una certa violenza che era latente, perché adesso si dice gli anni 60 erano belli e tranquilli, un accidente di niente, ma le bande c'erano anche allora, si chiamavano Mods, si chiamavano, come diavolo si chiamavano, a un certo punto sì, ma ce n'era un miliardo, ma anche qui in Italia a un certo punto c'erano questi gruppi paradelinquenziali. Diciamo che anche la violenza a un certo punto ha fatto dei balzi in avanti in linea al progresso tecnologico soprattutto. Comunque, vabbè, ecco lì è stata quella, la scelta è stata quella. No, Magnus è chiaro che è un entusiasta di fare qualche cosa che rompesse gli schemi tradizionali, cioè lì è stato proprio un salto, una rottura col passato e l'apertura di una nuova linea del fumetto italiano. Thank you. parola va a Magnus, che ci racconta anche il fascino che ha per i ragazzi questa figura del criminale a fumetti. Sì, noi vogliamo raccontare le storie di un assassino efferato. Però, nello stesso tempo, come succede ad esempio in Nightmare, i giovani hanno parteggiato per lui, ma non perché siano assassini efferrati, ma per uno strano, misterioso senso di ironia che possiedono, per cui tanto li impressionava e in negativo e tanto li affascinava. E quindi noi, dopo siamo stati costretti, anche Tex Willer era un fuggitivo che nel suo primo episodio al rumore di cavalli dice: non sarà mica lo sceriffo che mi corre dietro, cioè era un bandito. Erano considerati fumetti erotici perché allora la presenza femminile doveva essere castissima. Mi ricordo che io visitai, appunto cercando di disegnare fumetti, ma ero ancora al liceo artistico, la redazione del Vittorioso, e il caporedattore Nando Marchi correggeva le tavole dei disegnatori, dove ci fosse una fanciulla o una signora prosperosa, pur se coperta. Mi ricordo la nota che scriveva: appiattire, appiattire. Mentre Criminal e Satanic ebbero un successo quasi immediato, cioè vennero riconosciuti immediatamente per quello che il pubblico voleva, e quindi acquistati. Per Alan Ford ci è voluto un certo gioco, ma è successo che Alan Ford, appunto reggendo questa sua, diciamo, gavetta, ha dovuto fare questa gavetta, ha conquistato un pubblico di lettori molto vasto, per cui veniva comprato per esempio anche dal pubblico femminile. Giustiziere del male, Diabolic, Criminal, Satanic, e siamo finiti al gruppo TNT del numero 1 e tutti gli altri squinternati di questa armata brancaleone del fumetto, di un successo incredibile. Alan Ford quindi a chiudere questa trasmissione, che vi mando ovviamente ai saluti e alla settimana prossima. Ciao a tutti.